2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024. Benvenuti o bentornati, il programma di tecnologia di Radio 24, tutte le settimane, il venerdì tra le 22 e le 23 e la domenica fra le 13 e le 13:30, dopo le notizie di GR24. Come sempre ci trovate anche nella versione podcast. Questa settimana iniziamo dalle parole di Federico Faggin. Chi è Federico Faggin? Beh, molti di voi immagino lo conosceranno, altri forse lo hanno sentito nominare ma dicono ma questo nome non mi è nuovo. Allora, Federico Faggin è l'inventore del microprocessore, una persona estremamente interessante con la quale confrontarsi, una persona che potrebbe, dovrebbe forse vincere addirittura il premio Nobel per quello che ha realizzato parecchi anni fa. Oggi Federico Faggin ha una fondazione e vuole dimostrare che è impossibile creare macchine che abbiano consapevolezze, quindi che non è vero che sia possibile creare macchine capaci di sostituirsi all'uomo, come recentemente si sente spesso dire. Sapete che c'è una corrente di pensiero, devo dire che da un certo punto di vista affascina anche me, che sostiene, ma ci sono autorevoli personaggi scienziati che dicono le macchine diventeranno talmente intelligenti da poter sostituire l'uomo. Non è d'accordo Federico Faggin, lo ha incontrato questa settimana Gianfranco Giardina durante la presentazione, l'inaugurazione di una mostra intitolata Make in Italy, che è dedicata ai 50 anni di invenzioni e innovazioni italiane, quindi Federico Faggin era anche ospite proprio per questo motivo, inaugurata al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Se non siete mai andati o venuti, diciamo, a Milano al Museo della Scienza e della Tecnologia, al di là di questa mostra che è sicuramente interessante, beh, una visita merita, è un buon motivo per venire a Milano, Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Ma sentiamo le parole di Federico Faggin proprio su questo, che è uno dei grandi temi di attualità in questi tempi, ce ne siamo occupati ma recentemente anche 2024. Sapete che ci sono scienziati che hanno scritto, hanno fatto un appello alla comunità internazionale per pensare oggi alle conseguenze che ci saranno tra qualche anno sulle macchine intelligenti, sull'intelligenza artificiale. Sono 20 anni, 25 anni che penso a queste cose, da quando lavoravo con le reti neurali nella Synaptics. E mi chiedevo se era possibile fare, se fosse possibile fare un calcolatore consapevole, dove per consapevolezza si intende un calcolatore che abbia feelings, che abbia sentimenti, che abbia la capacità di avere un'esperienza, un'esperienza sensoriale, anche un'esperienza di pensiero, di capire e così via, cioè le facoltà superiori dell'uomo. Da 10 anni a sta parte mi sono convinto che questo non è possibile e quindi molte delle idee di questa intelligenza artificiale che ci controllerà nel futuro sono idee, secondo me, completamente senza merito. Cioè il fatto che l'uomo riesca a risolvere problemi diciamo automatici è una cosa relativamente facile da creare con un computer. Quello che è difficile da creare con un computer sono le capacità superiori dell'uomo. La creatività, l'abilità di capire, l'abilità di avere pensieri innovativi, quelle sono le cose che noi facciamo. La gente che propone questa idea che la macchina può diventare consapevole, eccetera, è gente che pensa che noi siamo macchine, quindi pensa che la macchina potrà avere il sopravvento, forse, ma soprattutto che pensa che la tecnologia può risolvere tutti i problemi. Io invece penso che la tecnologia, se non è guidata da una capacità umana, spirituale e morale, può diventare parte del problema invece che essere parte della soluzione. E quindi mi batto per rafforzare i valori che non sono di macchina, ma che sono valori umani, come creatività, come ho detto, come spiritualità, come la capacità di capire e la capacità di avere il libero arbitrio e così via, che la macchina non ha. E quindi questo è molto importante appunto per evitare una catastrofe nel futuro, perché se continuiamo a pensare come pensano molti techie cosiddetti, ci avviciniamo a una catastrofe, perché a quel punto se non c'è nessuna ragione di vita, chi vince è il più forte, no? E quindi ecco che chi è il più forte potrà usare la tecnologia contro l'uomo, invece che come ausilio e coadiuvante dell'uomo. Vabbè, mi sembra un contributo interessante. Il termine catastrofe viene spesso utilizzato quando si parla di intelligenza artificiale, anche da quelli che dicono, attenzione, che le macchine stanno cominciando a diventare così intelligenti, capaci quindi di sostituirsi all'uomo in molte attività, quelle tipicamente intellettuali, che tra qualche anno, magari decine di anni, ma non centinaia di anni, potrebbero prendere il sopravvento. Alcune notizie in breve della settimana. Digital News. Iniziano da Svezia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti le novità lanciate in settimana da Spotify, che hanno al centro il nuovo motore, a proposito di intelligenza artificiale, chiamato Now, che interpreta le nostre preferenze e ci propone canzoni, ma anche altri contenuti in base a quello che stiamo facendo o al momento della giornata. Lo proveremo quando arriverà in Italia. Altra novità riguarda i contenuti. Spotify proporrà anche video, programmi televisivi, podcast e notizie, grazie a molti accordi che sono stati firmati con molti editori. Digital News. Sapete che stanno nascendo vari sistemi per far interagire i consumatori con il punto vendita fisico. Una delle mode degli ultimi tempi sono i beacon Bluetooth che interagiscono con lo smartphone. Un'altra tecnologia alternativa, non so se avrà successo, comunque è interessante, è stata lanciata dalla Philips, che ha fatto un primo accordo con la catena Carrefour per fare un test a Lille in Francia. Il sistema si basa su normali luci LED usate per l'illuminazione, ma che sono in grado di emettere impulsi luminosi non visibili dall'uomo, ma che la fotocamera di uno smartphone riesce ad intercettare e ad interpretare grazie ad un'apposita applicazione da un'app. In questo modo un cliente può ricevere offerte o informazioni di vario tipo sui prodotti. Digital News. A proposito di app, sbarca anche a Milano Telepass Ping, un'app per smartphone che permette di pagare la sosta sulle strisce blu direttamente da smartphone e tramite il conto Telepass. Il servizio è attivo anche a Ferrara, Roma e Salerno. L'app permette di modificare il termine della sosta anticipandolo o posticipandolo anche a distanza, quindi non è necessario andare dove c'è l'automobile. Naturalmente il personale che controlla la sosta ha un'applicazione che controlla se la targa di quella macchina è associata al pagamento della sosta. È una delle tante applicazioni per il pagamento della sosta. Ci sono molte applicazioni in giro per l'Italia, ad esempio, che si basano su SMS. Digital News. In molti, o comunque in alcuni, si domandano come fa i soldi BlaBlaCar, il servizio di condivisione di viaggi in automobile. Da una decina di giorni sulla tratta Milano-Genova il sistema gestisce anche il pagamento online e il sito naturalmente trattiene una commissione. Questo sistema verrà esteso a tutto il territorio nazionale nei prossimi mesi, così come già avviene in Francia e Spagna. Quindi BlaBlaCar funziona in questo modo come gli altri sistemi di prenotazione, di condivisione, che ne so, Airbnb. Si trattengono una commissione e così guadagnano. Questa settimana l'aeronautica militare degli Stati Uniti ha lanciato per la quarta volta nello spazio un mini shuttle automatico, è l'X-37B. È una navetta simile come forma allo Space Shuttle, quello famoso ormai andato in pensione, ma è grande un quarto e non si sa bene a che cosa serva, ufficialmente per fare esperimenti nello spazio. La prima missione è stata effettuata nel 2010 ed è durata 7 mesi, l'ultima qualche mese fa, che è rientrata qualche mese fa, è durata circa 2 anni. Adesso parliamo di contenuti video in streaming. Allora, questa settimana Sky ha lanciato Sky Online TV Box, che è un piccolo ricevitore da collegare da una parte ad internet e dall'altra al televisore, che permette di vedere sul televisore i pacchetti del servizio Sky Online, che è un servizio diverso dal classico pacchetto Sky via satellite. Ne abbiamo parlato con Riccardo Balestiero, che è responsabile dei New Media di Sky Italia, e quindi anche del servizio Sky Online. Allora, Sky Online, tanto per cominciare, è la internet TV di Sky, un modo diverso di vedere i contenuti Sky, perché è caratterizzato dall'assenza di vincoli innanzitutto, quindi nessun abbonamento, e l'immediatezza dello streaming, no? È un mix del bello di Sky col bello di internet, con i contenuti su misura. E con il TV Box, di fatto, la internet TV di Sky diventa comoda, perché di fatto ti porti la internet TV nel salotto di casa, la porti al mare, in montagna, da un amico, e portandolo sul salotto di casa, di fatto si democratizza, si porta la internet TV, non solo si amplia molto il target, che si porta l'internet TV non solo dallo smanettone nativo digitale, il millennial di cui tanti parlano, ma anche nelle case di giovani famiglie che anche per motivi economici oggi vorrebbero vedere i contenuti di Sky, però non possono farlo. Quindi diciamo che basta internet, basta collegare questo sistema vicino al televisore e io inserisco i miei dati direttamente con il sistema, quindi non ho bisogno del computer, del tablet, dello smartphone. Allora, l'account di Sky Online va creato su un computer. Sul computer si crea il proprio account, quindi username e password, e dal computer si acquistano i ticket. Compro il ticket cinema, compro ticket intrattenimento, piuttosto che compro la singola partita o il MotoGP. Una volta che ho definito il pacchetto che io voglio lato PC, poi posso fruire del contenuto che io acquisto su tutti i dispositivi, quindi dal PC al tablet e da oggi anche sullo Sky Online TV Box, comodamente seduto nel salotto di casa. Collegandolo col televisore, quindi questa è la novità sostanzialmente. Collegandolo col televisore, quindi basta una porta HDMI dal box al televisore di casa, lo si connette al modem, quindi al router di casa, lo si può fare con un semplice cavo Ethernet oppure in Wi-Fi a preferenza del cliente, e pronti e via, si inserisce username e password del proprio account e si vede il contenuto che è stato appunto acquistato. Continueremo tra poco a parlare di questo, siete alla ascolto di 2024 su Radio 24, a tra poco. 2024 è anche su Facebook e Twitter. Cerca 2024 o Enrico Pagliarini. 2024. Più tardi parleremo anche di Internet of Things, o come dicono alcuni, Internet of Everything, la internet degli oggetti. Stiamo parlando di contenuti video in streaming. Ci sono molti servizi che permettono di vedere via internet contenuti video, che siano film o altri tipi di programmi. Questa settimana Sky, che ha la propria offerta su internet che si chiama Sky Online, ha lanciato un TV Box, quindi un piccolo ricevitore da attaccare al televisore per rendere più facile la fruizione di questi contenuti. Allora, sul mercato italiano esistono altri due prodotti analoghi, la Apple TV, che costa 79 euro e permette di vedere sul televisore di casa i contenuti di Apple, e anche Chromecast di Google, che costa 35 euro e permette di vedere tutta l'offerta, anche alcune offerte di partner, comunque l'offerta di Google e di alcuni partner. Ci sono una serie di applicazioni. In questo modo appunto è possibile collegare questi piccoli ricevitori, chiamiamoli così, al televisore, e si bypassa tutto il problema delle applicazioni. Sapete che oggi i televisori sono un po' come degli smartphone, ogni smart TV ha il proprio sistema operativo e su quel sistema operativo bisogna sviluppare delle applicazioni. Allora, se io ho un servizio online, devo sviluppare le applicazioni per Android TV, per WebOS, per Firefox, eccetera eccetera, tutti i sistemi operativi dei televisori. In questo modo, con queste scatolette, si bypassa il problema delle applicazioni. Giusto per chiudere il quadro, ci sono in generale altri servizi che non hanno un proprio box, come ad esempio Chili, che invece ha applicazioni per quasi tutti i televisori. C'è anche Infinity e TeamVision, e in questi casi ci sono alcuni televisori che hanno applicazioni, altri televisori che non hanno applicazioni. Anche in questo caso il mondo televisivo e il mondo della internet TV sta complicando un po' le cose ai consumatori. A proposito di prezzi, aggiungo che lo Sky box, questo Sky Online TV box, costa 49,99 euro, quindi 50 euro con un mese d'abbonamento incluso. Ma che cosa cambia? E soprattutto si vede anche in alta definizione, perché questo è uno dei grandi problemi di molti servizi che vengono erogati via internet. Allora, la decisione di offrire contenuti in SD è una scelta commerciale, perché il box sostiene tecnicamente il 1080p. È una scelta commerciale proprio perché è un'offerta proprio entry level di Sky, il classico paragone automobilistico della BMW serie 7, il non plus ultra dell'esperienza televisiva è quella di Sky satellitare, e invece la Mini che è Sky Online. Detto questo, noi abbiamo un SD molto sovralimentato. Perché? Perché abbiamo il doppio del frame al secondo sul nostro SD, e in più, soprattutto sui contenuti on demand, li lavoriamo offline per offrire una qualità a prova di grande schermo. Ma non c'è nulla in HD, in alta definizione? C'è qualche contenuto in alta definizione, in particolare sulle apps dei partner. Per quanto riguarda Sky Online, al momento in SD, non escludo che nei prossimi mesi o anni estenderemo anche l'offerta all'HD. Questa era la voce di Riccardo Balestiero, che è responsabile New Media di Sky Italia. Quando parla di SD parla di standard definition, quindi la definizione standard è quella normale che si vede ancora sul digitale terrestre. Purtroppo noi siamo dei grandi sostenitori dell'alta definizione e vorremmo che i grandi broadcaster nazionali e internazionali spingessero molto di più su contenuti in alta definizione, visto che oramai molti milioni di italiani hanno un televisore che permette di vedere contenuti in alta definizione, ma il mercato ancora è povero di questi contenuti. Molti dicono anche che soprattutto le offerte di Mediaset con Infinity e Sky con Sky Online non siano al momento particolarmente sexy, perché, beh, un po' perché proteggono il loro business principale, quello via satellite, quello sul digitale terrestre, ma soprattutto siano anche un modo per occupare uno spazio in attesa dell'arrivo di Netflix, e anche un modo per diciamo tenere alla larga Netflix, visto che i grandi broadcaster italiani hanno comprato moltissimi diritti per internet, e quando Netflix deciderà di arrivare non potrà avere un'offerta particolarmente aggressiva, farà sicuramente prezzi molto molto bassi per entrare sul mercato, ma questo è anche un po' il gioco delle parti. Vedrete che quando arriverà Netflix alcune cose cambieranno. Adesso cambiamo argomento, parliamo e facciamoci la domanda che ci stiamo facendo nelle ultime settimane: che cosa ce ne facciamo della banda? Perché si fa un gran discutere e siamo ancora in attesa dei decreti attuativi del piano banda ultralarga del governo, approvato il 3 marzo e non ci sono ancora decreti attuativi. Comunque, visto che il dibattito è in atto, ma non è successo praticamente nulla nelle ultime settimane, sono uscite un po' di indiscrezioni, ma insomma noi ci fidiamo delle cose quando verranno approvate definitivamente, dicevo, ma comunque qualche cosa si farà. Il mercato da un lato sta procedendo con un po' di infrastrutture, un upgrade delle reti attuali, il governo metterà sul piatto alcuni miliardi di euro per favorire lo sviluppo ulteriore della banda larga in tutta Italia. Ma dopodiché, che cosa ce ne facciamo della banda? Allora, stiamo facendo alcune interviste con alcune grandi aziende che consumano molta banda. Saluto Giovanni Rando Mazzarino, che è Chief Technology Officer di Lottomatic, che fa parte di un gruppo internazionale IGT. Mazzarino, benvenuto a 2024. Grazie a lei. Partiamo subito da quello che fate, poi parliamo della banda, della tecnologia. Vi occupate di che cosa nel mondo? Beh, IGT adesso, con la nuova acquisizione G-Tech IGT e Lottomatica come vecchio brand italiano, praticamente il leader mondiale della fornitura delle tecnologie delle slot machine nel mercato del casinò e il leader mondiale nella fornitura delle tecnologie delle lottery. Inoltre è il più grosso operatore concessionario in Italia per praticamente tutto il portafoglio d'offerta che va dalle lotterie al gambling e all'interactive, allo sport betting. Quindi giochi, scommesse e anche pagamenti, di fatto vi occupate di soldi, di denaro? Assolutamente, poi nell'ambito italiano e nell'ambito del Sud America, nonché nell'area polacca, abbiamo esteso l'offerta a servizi che sono praticamente coperti in quello che viene chiamato commercial services, quindi tutte le ricariche telefoniche, il pagamento delle bollette delle utility, pagamenti di altra natura, bollo e quant'altro, o come è successo in Italia anche servizi per la pubblica amministrazione nel famoso progetto delle reti amiche. Quindi tutto quello che fate, o quasi tutto quello che fate, lo potete fare solo perché esiste internet? Diciamo perché esiste una connettività che ci consente di raggiungere tutti i punti capillari del paese Italia in questo caso, ma come succede anche negli altri paesi dove coperture e connettività possono avvenire anche tramite satellite nel caso in cui non c'è copertura di connettività, come dire, wireline o wireless di altra natura. Possiamo, per avere un'idea, sapere qual è la connettività di cui potete usufruire nella vostra rete molto, molto ampia? So che ci sono 35.000 punti che voi collegate. Assolutamente, l'Italia potrebbe essere davvero il benchmark su capire cosa e a che livelli può arrivare la complessità e la dimensione. Noi gestiamo 110.000 punti vendita, consideri che le Poste con i suoi 16.000 punti agenzia hanno un rapporto che di un ordine di grandezza inferiore. Abbiamo dentro questi 110.000 punti vendita 35.000 di questi connessi in ADSL broadband, e questo perché oggettivamente la copertura no, alcune volte non arriva a coprire tutti i piccoli centri comuni del territorio nazionale. Abbiamo circa 800 sale che sono di fatto dei mini casinò, dove abbiamo un'ultra larga banda di connettività con ridondanza, e poi 1500 corner agenzie di betting, dove anche lì per via degli streaming, per via dell'informazione delle quote, delle live che avvengono, la necessità di banda diventa importante. Voi come azienda invece quanto che capacità avete verso la rete internet? Noi oggi sulla capacità cerchiamo di limitarla per ovvi motivi, due motivi fondamentali: non sempre l'aumento della banda è coerente con l'affidabilità, e per noi l'affidabilità, visto che facciamo delle transazioni di fatto economiche, è l'elemento basilare. E la seconda cosa è il costo: quando sali su di rispetto di banda garantita, il costo è oggettivamente rilevante, quindi il trade-off di una situazione di necessità versus una necessità di corretto balance del costo ci costringe a tenerci su un livello di dispendio che non è alto, anche se le opportunità e le richieste, le necessità stanno crescendo in maniera esponenziale. Vediamo che di fatto un investimento in questo senso sarebbe opportuno per creare sviluppo. Certo, in Italia in modo particolare, ma poi penso che questo sia un tema che vale per tutto il mondo, non solo nei paesi evoluti, anche quelli in via di sviluppo. Sempre tornando al tema della banda, diciamo, voi oggi in che termini ragionate, in termini di megabit, gigabit? La parte centrale raggiunge gigabit perché di connettività per tutta quanto riguarda tutta la usufruzione internet. Per quanto riguarda i singoli punti siamo a livello di megabit, perché questo è il minimo che per adesso riusciamo ad ottenere in termini di availability e di capillarità sul territorio. Consideri che progetti che ci stanno portando avanti su logiche di creare degli hotspot wifi nei punti vendite, quindi l'opportunità di integrare clientela che può usare il suo smartphone entrando dentro un nostro punto vendita, di fatto sono le premesse per una richiesta di banda decisamente più elevata di quanto oggi non riusciamo a derogare. Certo, questo dell'hotspot wifi è già un esempio, ma se noi volessimo capire meglio quello che ci fate con la banda, quindi perché è importante avere una connettività a banda larga in questi almeno 35.000 punti che potrebbero diventare molti di più? Ma lei consideri che ad esempio nel caso del 10 e l'8 è un costante invio di informazioni a rolling che sono o di advertising o esclusivamente di estrazione dei numeri e di animazione? Sull'area dello sport betting abbiamo una costante necessità di erogare streaming e di erogare contenuti live che consentano poi ai giocatori in sala di poter esprimere le loro decisioni. Tutte queste operazioni consumano banda e danno, come dire, necessità di grande affidabilità nella connettività. Nel vostro caso mi sembra di capire che stiamo parlando di un numero molto elevato di transazioni che singolarmente non occupano tanta banda. Noi abbiamo fatto interviste in passato con aziende che invece avevano necessità di trasferire magari pochi file, ma file addirittura di progetti che pesano gigabyte o terabyte addirittura. Il vostro caso invece è un caso di grande numero, giusto? Assolutamente vero, anche se la necessità, noi consideri che sull'Italia facciamo circa 16 miliardi di transazioni, tutte correlate a un valore economico, perché sono transazioni più delle volte di pagamento o della giocata o del pagamento della multa o della ricarica. 16 miliardi sono anche le giocate che possono essere fatte sulle slot machine. Tutto questo incide sulla tematica di performance, di velocità, ma concordo con lei, la quantità di byte necessaria per singola transazione è veramente bassa. Abbiamo poi un'altra necessità, che invece quando dobbiamo telecaricare interi pacchetti software sui terminali, e quando parliamo di 110.000 terminali, allora a quel punto la necessità di banda diventa più importante, tant'è vero che va fatta in momenti particolari, dobbiamo dividere in tranche. Diciamo che la penuria di questa risorsa ci costringe a fare delle elaborazioni, delle modalità d'approccio molto articolate. 16 miliardi in quanto tempo? Al giorno? Un anno. 16 miliardi di transazioni all'anno. Questo vuol dire che anche le slot machine sono collegate in banda larga? Le slot machine sono collegate perché il progetto, in special modo quello delle VLT, non le slot machine, perché sono due i target. Le AVP sono collegate e recepiscono soltanto informazioni relative al contatore del gioco, mentre le VLT, che sono espressione di una concessione particolare, cioè delle sale adibite al gioco delle slot machine, quelle sono tutte connesse in banda larga attraverso il nostro sistema direttamente al sistema centrale di Sogei, quindi una duplice verifica di quello che avviene nel gioco, nella transazione, questo a rispetto della trasparenza col giocatore, del gioco responsabile, ma dell'accountability che viene fatto per nome e conto dei monopoli. Sì, in questo caso c'è proprio un obbligo di legge di connettere le macchine ad internet. Sogei, ricordiamo che l'operatore la società che opera per l'Agenzia delle Entrate, quindi in questo caso che è proprio un progetto tecnico che impone una soluzione, una modalità che dà garanzia a tutto il percorso del gioco. Sì. Negli Stati Uniti, visto che voi siete un operatore molto importante negli Stati Uniti, come le slot machine sono collegate a internet? Negli Stati Uniti la soluzione è tipicamente quella dei casinò. I casinò sono delle WAN interne che chiudono con sé, perché la concessione si chiude direttamente sul proprietario del casinò ed è lui che in toto è garante per nome e conto dello Stato della correttezza e della sua implementazione. Viene certificato e tutto. Devo dire, per certi versi, tecnologicamente è molto più semplice, perché potrà capire bene che gestire, che sono 3.000, 4.000, 10.000 macchine dentro un intero stabile o dentro un intero palazzo ha delle complessità importanti, ma è altrettanto vero che è contenuto in uno spazio fisico. Lei consideri che noi come Lottomatica in Italia abbiamo praticamente 10.000 slot machine VLT, come se fosse un grande casino, piccolo particolare, distribuito su 800 sale su tutto il territorio nazionale. Quindi due differenti approcci nell'utilizzo del networking e dell'internet e della banda larga. Quello italiano capillare, distribuito, utilizza strutture degli operatori telefonici, quello americano concentrato, WAN, interamente gestito dal proprietario dei casinò. Faccio un'ultima domanda a proposito di disponibilità dei collegamenti. Il bouquet di offerta che c'è sul mercato, quindi oltre al cavo che sia ADSL su rame, che sia fibra ottica, e poi aggiungiamo tutto quello che offre la telefonia mobile, altre tecnologie, radio e anche il satellite, è sufficiente o effettivamente la mancanza di una capillarità della rete internet vi crea problemi? A proposito di questo casinò distribuito sul territorio. Guardi, noi iniziamo con una rete privata, noi intendo come l'Ottomatica Italia inizia con una rete privata che addirittura risaleva ai tempi della BNL, che aveva un suo tramite Alba con una delle sue dorsali. Poi cambiamo e portammo da SDLC a SDN, da SDN ad ADSL. Diciamo che le abbiamo provate tutte per avere la massima copertura e avere la massima competizione tra gli operatori. Oggi il nostro parco è fatto da circuiti ADSL di Fastweb, di Wind, di Telecom, e quindi riusciamo a gestire, come dire, al meglio le coperture possibili. Abbiamo sofferto negli anni passati di un effettivo digital divide presente sul territorio nazionale. Devo dire che questo nel tempo è migliorato molto, però adesso il tema del costo versus la quantità di banda e l'availability di questo in tutti i posti. Noi oggi alcuni, ancora circa un migliaio di punti vendita, li copriamo con o satellitare o mobile. Quasi tutte le slot, quelle di tipo AVP, quelle del contatore che viene rilevato, è fatto tramite GPRS, quindi con SIM mobile, perché i costi sono decisamente inferiori e perché il più delle volte non riesce a raggiungerli con wireline, perché o non raggiungibile o non presente la risorsa. Per cui il tema esiste ancora, devo dire, grandi passi fatti in questi 2-3 anni assolutamente in termini di copertura. Adesso il grande sforzo è quello davvero di fare il salto qualitativo per fare in modo che la quantità di risorsa disponibile sia più coerente e abilitante a tutto quello che la nuova gestione di un punto vendita, di un giocatore, di un avventore richiede. Le faccio un'ultima domanda che riguarda la sicurezza, perché naturalmente gestendo denaro la sicurezza è un aspetto molto importante. Gli attacchi esistono, cioè i ladri esistono su internet, immagino che voi lo vediate molto bene questo. Ma guardi, di attacchi noi nel tempo abbiamo dovuto, per ovvi motivi, costruire tutte le modalità possibili che sono nella best practice di chiunque opera su internet, dal phishing allo spam al tentativo di intrusione ad attacchi premeditati per mettere in crisi un intero sistema di erogazione su web services. Ce ne abbiamo giornalmente un'infinità incredibile. Grazie a Dio le tecnologie oggi sono in grado, da un lato purtroppo, aiutare i criminali ad aumentare il loro grado di efficacia, e dall'altro, come dire, come un gioco di guardie e ladri, si aumenta il livello di escalation delle tecnologie e la rincorsa è proprio quella sempre o di anticipare o di essere un minuto prima presente con una soluzione che blocchi l'eventuale tematica di attacco. Ecco, la grande operazione che abbiamo fatto è quella di essere proattivamente presenti con osservatori, con grandi logiche di network, per capire un po' in anticipo quando fenomeni un po' più criminogeni si presentano nel mercato. Bene, ingegnere, grazie per essere stato con noi, a presto e buon lavoro. Grazie mille, arrivederla a lei e a tutti. Questo è 2024 nella sua versione podcast, con tutte le nostre interviste in versione integrale. Riprendiamo subito, cambiamo argomento. 2024. Riprendiamo questa puntata, io sono Enrico Pagliarini, grazie come sempre per la vostra attenzione. Il nostro indirizzo di posta elettronica è 2024@radio24.it. Ci trovate anche su Facebook, su Twitter, sul nostro sito internet www.radio24.it. La prossima settimana ci saranno alcune notizie che potrebbero arrivare da Shanghai, perché a Shanghai si tiene il Consumer Electronics Show Asia. Saremo presenti anche noi di 2024, cioè sarò presente io, per scoprire se anche dalla versione asiatica, cinese del Consumer Electronics Show ci saranno notizie interessanti. Sicuramente Una cosa interessante è la presenza massiccia anche in quella edizione dei produttori di automobili che stanno sempre diventando oggetti di elettronica di consumo e si stanno sempre più spingendo verso la tecnologia, ne parleremo. Oh, devo rispondere anche a alcuni ascoltatori che dicono: vi state occupando troppo spesso di cose professionali. Beh, allora, innanzitutto di novità dal mondo consumer non ce ne sono tantissime negli ultimi mesi, ma devo dire che dal mondo professionale, dal mondo delle aziende arrivano alcuni spunti interessanti. Devo dire che c'è anche una sensibilità maggiore che sta crescendo, molte associazioni di categoria organizzano incontri sulla tecnologia e questa è una cosa positiva che cerchiamo di registrare. Però insomma, vale tutto, eh? Le opinioni sono sicuramente utili, potete continuare a scriverci. Adesso ci occupiamo di un mega trend che riguarda tutti, non solo le aziende ma anche i consumatori, che alcuni chiamano Internet degli oggetti, Internet of Things, oppure c'è anche chi, come Cisco, l'ha definito Internet of Everything, la Internet di tutto. Alberto De Gradi si occupa di questo all'interno di Cisco. Benvenuto 2024. Grazie. Tu sei leader di questo grande tema che voi avete ribattezzato Internet of Everything, tradotto Internet di tutto, di tutte le cose, di tutti gli oggetti. Poi entriamo nello specifico, ma detto in pochi secondi di che cosa ti occupi? Mi occupo in realtà di quello che è l'evoluzione di Internet. Ovvero l'internet ha iniziato con collegare i computer, poi le persone e adesso è il turno delle cose. E quindi ecco che internet avrà nuovi abitanti, veramente tanti, noi diciamo, quindi abbiamo una previsione di 50 miliardi di oggetti collegati alla rete entro il 2020 e quindi c'è molto da fare. Il 2020 sta per arrivare, cioè non è che manca tantissimo. Prima di entrare in questo tema molto, anche molto affascinante per certi versi, diciamo due cose su Cisco. Che cosa fa Cisco? Perché è un'azienda famosissima, un'azienda gigante, un'azienda che sta dentro alla rete internet in modo molto importante, molto forte, però forse non tutti sanno che cosa fate. Sì, quello che hai detto tu è corretto, noi veniamo praticamente dalla costruzione con i nostri prodotti della connettività per internet, così è nata l'azienda che è un'azienda che ha 30 anni, è nata negli Stati Uniti in un'università come è abbastanza normale negli Stati Uniti e poi si è diffusa in tutto il mondo. E oggi abbiamo l'obiettivo, oltre che mettere a disposizione i nostri prodotti per fare comunicare i computer e le persone, di digitalizzare e quindi di partecipare al processo di digitalizzazione del mondo. Quindi Internet delle cose si inserisce proprio in questo aspetto. Noi diciamo da tempo, il nostro presidente dice da tempo, che noi stiamo cambiando il modo in cui le persone lavorano, studiano, giocano e imparano. Sì. E questo è il nostro obiettivo. Tornando a quello che fate, o rimanendo a quello che fate, buona parte delle macchine che trasferiscono dati da un punto all'altro della rete, anche all'interno delle aziende, sono fatte da voi, giusto? Esatto, quindi esattamente. Fate, producete cose. Produciamo cose, sì, sì. Produciamo quello che viene definito hardware e software, sì. Quindi... Senti, prodotto. Perché siete così interessati alla Internet of Everything, che voi avete appunto, la Internet degli oggetti che voi avete ribattezzato Internet di tutti gli oggetti? E come abbiamo detto prima, l'evoluzione della rete, quindi ovviamente anche di quello che stiamo facendo. Noi riteniamo anche che sia molto importante mettere insieme le cose, quindi stiamo parlando di Internet of Things, quindi delle cose, ma noi abbiamo anche i dati, le persone e i processi. Mettere tutte queste cose insieme significa parlare di Internet of Everything, che è quello di cui siamo molto interessati. E noi riteniamo anche che il vero valore venga proprio dalla relazione tra queste cose. Faccio un esempio molto semplice, ma che rende, credo, l'idea. Se noi abbiamo un sensore che ci dà un'informazione, non necessariamente questo sensore è stabile, ma potrebbe essere nomadico e quindi abbiamo bisogno di geolocalizzarlo, quindi abbiamo bisogno di un altro pezzo di informazione per poter capire dove sta succedendo che cosa. Quindi la relazione tra tutte queste cose è estremamente importante, come sono importanti i dati che arrivano da questi sensori. Tu hai citato i sensori, questa è una parola che citiamo spesso a 2024 perché un mattone importantissimo di questo fenomeno della internet degli oggetti sono proprio i sensori, che stanno diventando sempre più economici, giusto? Sì, sempre più economici. Ci sono tre caratteristiche, direi, che rendono i sensori da questo momento in avanti direi molto facilmente utilizzabili un po' in tutti gli oggetti, e le tre caratteristiche sono quelle di essere molto piccoli da un punto di vista della dimensione, quindi poter essere alloggiati facilmente un po' dappertutto. Un millimetro, anche più piccoli. Sì, noi normalmente utilizziamo una moneta da un centesimo con sopra un sensore per far capire che le dimensioni sono veramente piccole oggi, e poi costano molto di meno e consumano da un punto di vista elettrico molto di meno. Questo fa sì che questi sensori possano essere utilizzati un po' dappertutto, indipendentemente quindi dal costo. Non stiamo parlando di un utilizzo che può essere fatto solo ed esclusivamente su sistemi di grande costo, ma anche su cose che hanno un costo molto molto più contenuto. E questo farà sì che la nostra previsione, anzi oggi noi diciamo che l'1% delle cose commerciali sono connesse. Grazie all'abbattimento dei costi di questi sensori sarà possibile andare molto oltre e quindi andare a connettere tutto quello che oggi non è connesso. Sì. L'altro mattone è appunto la connettività, senza fili o anche con i fili, dipende dove mettiamo questi sensori. Quando parliamo di sensori che riescono a registrare tutto, temperatura, pressione, luce, caldo, freddo. Sì, stiamo parlando ovviamente di sensori che generano dati, ma soprattutto anche di sensori che li trasmettono. In realtà noi si sente molto parlare di oggetti smart, e io ogni tanto scherzando dico smart sarà la parola più utilizzata al mondo tra un po', perché tutto diventerà smart. E l'oggetto smart significa avere appunto un sensore con dell'intelligenza che è in grado in qualche modo di esaltare le sue funzionalità, e poi di connettività che è in grado di portarle fuori dall'oggetto stesso, quindi trasferire delle informazioni verso dei sistemi, dall'applicazione che noi abbiamo sul nostro smartphone al cloud, dove tipicamente vengono memorizzate queste informazioni e poi analizzate. Quindi questo è quello che sono i passi che portano un oggetto a diventare in realtà un oggetto smart. Sì. Uno dei fenomeni che stiamo commentando da tempo è quello degli oggetti indossabili, che ne so, un braccialetto che registra quanto corriamo, quanto batte il nostro cuore, eccetera, eccetera. E questo è uno degli esempi di come le cose che prima erano inanimate diventano connesse alla rete. Però Internet of Everything, come la definite voi, è una cosa un po' più seria. Del braccialettino che ci mettiamo al polso, no? Sì, diciamo intanto che Internet of Everything è qualcosa che è estremamente ampio, ma in generale direi anche l'Internet delle cose è un po' trasversale a tutti i settori. Quindi parliamo, come hai detto tu, dei wearables, anche di tipo molto semplice, come i braccialettini che possiamo avere e che abbiamo già, molte persone indossano già oggi, a cose che invece afferiscono, come si sente parlare spesso, da smart grid piuttosto che allo smart cities, e quindi cose che riguardano decisamente infrastrutture un pochino più complesse rispetto al semplice oggetto. Senti, il tuo modo di vedere, qual è il vero vantaggio di connettere tutte queste cose? Il vero vantaggio sono le informazioni che riusciremo ad avere. Un dato molto interessante è quello che negli ultimi 2 anni abbiamo creato più dati rispetto ai 5.000 anni precedenti, che è, se ci pensiamo, una cosa incredibile. e però dai dati siamo in grado di trarre informazioni. Processando queste informazioni siamo poi in grado di avere la capacità di prendere delle decisioni in modo più consapevole, di aumentare la nostra conoscenza. E questo è il vero valore che arriverà dal connettere le cose e dall'analizzare i dati, che oggi in realtà non abbiamo. Quindi avremo una consapevolezza nuova. Big data. Big data, famoso, esatto. Famoso tema del big data. Quindi big business. Big data. Perché se no non avevate, come dire, scatenato il marketing vostro per ideare questa cosa bella, Internet of Everything, che è una declinazione della Internet degli oggetti. Sì, i dati diventeranno sicuramente, anzi lo sono già, un'economia, quindi hanno un valore e di conseguenza ovviamente la gestione di questi dati diventa un business, sì, a tutti gli effetti. Facciamo alcuni esempi di che cosa significa Internet degli oggetti, partendo però dal punto dal quale non si parte quasi mai, cioè le aziende, mondo delle aziende, perché io continuo a dire che Internet è importante per tutti, ma soprattutto per le aziende, per diventare più competitive, e se le aziende sono più competitive poi a cascata cambia anche il paese. Qui potremmo dire in generale che la digitalizzazione sta cambiando i modelli di business, e io credo che ne abbiamo degli esempi tutti i giorni sotto gli occhi, come stanno cambiando le cose, per cui tutte le aziende, grazie all'internet delle cose, alla digitalizzazione, dovranno rivedere un po' come stanno facendo business in questo momento. Quello che sta succedendo è che l'IT sta un po' contaminando, ma utilizzo questo termine nel senso buono, un po' tutti i settori. E oggi si parla dell'information technology che va nella parte di produzione, e quindi per esempio tutta la parte manifatturiera diventa vede cambiare un po' il proprio modello col quale lavora, per cui entrano i sensori all'interno della catena di produzione, si integra la logistica e quindi quella che viene definita la supply chain con tutti i processi di produzione. C'è una parte di sicurezza che viene gestita attraverso l'IT, attraverso le telecamere, attraverso dei tag attivi che vengono messi sulle persone. Insomma, c'è moltissimo che riguarda i vari settori verticali. Poi ovviamente bisogna scendere nei vari settori per cercare di fare degli esempi un pochino più concreti. Possiamo fare alcuni esempi per capire poi in realtà concretamente cosa succede? Sì, certamente possiamo ovviamente cercare di fare qualche esempio, e direi che la cosa principale in questo caso è quella di rivedere quello che si sta facendo con un'ottica nuova. Cioè, noi siamo stati abituati ad utilizzare la tecnologia in passato per automatizzare. Adesso il processo invece è quello di rivedere un po' il metodo di business. Quindi la tecnologia ha questa capacità di essere, si dice, disruptive, cioè di cambiare completamente il modello con cui viene fatto il business, no? E questo è direi l'approccio che le aziende devono tenere. E detto questo, quindi si passa a cercare di capire come in realtà il business tradizionale, quindi il metodo di lavoro tradizionale, possa essere rivisto. E qui si passa per esempio alla manutenzione preventiva, che è il primo approccio, ovvero grazie ai sensori e alla gestione di tutto questo è possibile oggi non arrivare a situazioni che fermano una catena di produzione, ma grazie ai sensori è possibile capire quando qualcosa sta degradando, e quindi si può inserire un periodo di manutenzione preventiva per arrivare a fissare il problema. E io dico che questo, tra l'altro, che parte dalla grande azienda, arriverà rapidamente anche ai nostri elettrodomestici di casa. Quindi proprio col discorso che abbiamo fatto prima, il costo molto basso dei sensori consentirà di avere, per esempio, nelle nostre lavatrici, per fare un esempio, dei sensori che ci consentiranno di sapere esattamente se la nostra lavatrice sta per avere un problema, e oltre a noi probabilmente lo saprà il nostro chi ci fa manutenzione centralmente, e loro verranno a fare questo tipo di manutenzione prima che il problema in realtà si verifichi. Sì, qualcuno sta già connettendo gli elettrodomestici, però sì, in funzione non predittiva o preventiva. Cioè, se si rompe, sì, io mi accorgo che si rompe, ma una volta che si è rotta. Esatto. Poi noi abbiamo parlato di dati, avremo una quantità di dati nuovi. Usiamo ancora la lavatrice, per esempio. Come noi utilizziamo la lavatrice in realtà è un pochino un mistero. Cioè, non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno. Nemmeno noi, perché facciamo fatica a fare la statistica. E quindi avere dei sensori che sono in grado di dire effettivamente come viene utilizzata una lavatrice, quindi quanti tipi di lavaggio, i lavaggi vengono fatti, darà la possibilità di creare un oggetto di nuova generazione che sarà molto più efficace e adatto alle necessità che magari stanno anche cambiando dell'utente. E questo secondo me vale un po' per tutto. Facciamo degli altri esempi, non necessariamente nella fabbrica o all'interno del mondo delle aziende, però giusto per capire che cosa può significare Internet degli oggetti. Guarda, l'ultima cosa che ho fatto è stato parcheggiare prima di entrare in radio, e lo smart parking è uno di questi esempi. Oggi in alcune città ci sono già delle aree di sperimentazione che funzionano, devo dire, molto bene. E quello che succede è che all'interno di queste aree vengono messi dei sensori che sono in grado di rilevare la presenza o meno della macchina, quindi la disponibilità dei parcheggi. Questa disponibilità attraverso la rete viene trasportata in un'applicazione che sta nel cloud, e io col mio smartphone sono in grado di consultare e avere in tempo reale la disponibilità di questi parcheggi. Per cui nel momento in cui desidero muovermi e andare in una località, posso verificare immediatamente se ci sono parcheggi disponibili e posso prenotarli. E quindi questo fa sì che io, quando arrivo, anche guidato da una mappa GPS, so perfettamente dove andare a parcheggiare. Scusa, se li prenoto cosa succede? Si accende una luce rossa oppure sale una sì, cosa che blocca il parcheggio? No, nel momento in cui il parcheggio viene prenotato c'è effettivamente una segnalazione luminosa che dice che il parcheggio è prenotato. Nel momento in cui arrivo io che l'ho prenotato, l'applicazione mi genera un codice e in questo momento io scendo dalla macchina e vado a un computerino da palo e metto questo codice e tutto dice che è regolare. Che sono io, okay. Diciamo che in futuro tutto questo sarà ovviamente automatizzato e addirittura io penso che sarà un oggetto fisicamente presente sulla macchina, un oggetto di comunicazione, quindi un piccolo router di comunicazione che farà tutto questo automaticamente in una modalità che viene definita machine to machine, cioè si parlano le macchine tra di loro e fanno qualcosa che invece in questo momento richiede un'interazione umana. Sì, il machine to machine è un modo di definire la internet degli oggetti, sì, perché sono macchine che parlano tra di loro. Sono macchine che si parlano, esatto, sì, che parlano tra di loro e soprattutto in funzione di quello che si dicono prendono delle azioni. Sì. Quindi questo è la sintesi del machine to machine. E poi abbiamo in realtà altre tipologie che sono quello che noi viene definito people to people, che è la collaborazione, che probabilmente è molto più consolidata, alla quale siamo più abituati utilizzando oggi i nostri device per comunicare voce e video in modalità abbastanza normale. E poi abbiamo tutta la parte di cui abbiamo accennato, big data e anche analytics, che viene definita machine to people. Sì. Altri esempi? Altri esempi? Possiamo parlare per esempio di una cosa che a me piace molto, che è la Smart Cup, che negli Stati Uniti oramai è stata approvata. Ed è una cup, intendi una un contenitore, una coppa. C'è sì, un contenitore sì, sì, che ha in realtà la capacità di contare le pillole, quindi medicinali, che ci sono all'interno, e di conseguenza si può indicare un limite di riserva di queste pillole, e nel momento in cui si arriva alla riserva lui automaticamente manda una comunicazione al medico, immaginando ovviamente che questo farmaco sia un farmaco che io devo continuare a prendere. E questo fa sì che il medico ha l'informazione, è in grado di fare la ricetta e quindi sostanzialmente di mandare io direi a questo punto in elettronico questa ricetta in farmacia, quindi spostiamo bit, come si dice, non atomi, e la farmacia mi comunica sempre attraverso una comunicazione digitale se il farmaco è presente io posso andarlo a ritirare. Questo è un modo molto semplice per far capire un processo che in genere possiamo definire, insomma, che non ha molto valore, nel senso che il fatto che io prenda una macchina, vada dal medico e gli dica semplicemente che ho bisogno di reintegrare il farmaco è qualcosa che non ha grande valore. Diciamo in quel che poi momento, con l'intelligenza artificiale questo passaggio sarà sostituito dalle macchine. Io fossi un medico comincerei a pensarci, ma è un tema di cui si sta discutendo effettivamente. Ci sono molte applicazioni in campo sanitario, medico, che sfruttano l'intelligenza artificiale per riprodurre azioni abbastanza meccaniche dei medici di base, che devono, che insomma, cioè, anche al Ministero della Salute italiano stanno discutendo di questo, che è un tema molto importante, però è un altro tema. Sì, ma io credo che ci saranno comunque molte cose inerenti alla salute. Direi che l'approccio, io lo vedo un pochino a step, l'approccio iniziale sarà quello più che altro di aiutarci in una fase preventiva. Quindi avremo una serie di strumenti molto semplici, wearables prevalentemente, che ci aiuteranno a capire come stiamo, quindi a dare informazioni che ci consentono, proprio anche grazie al big data e quindi all'analisi di tutti questi dati, di capire se sta succedendo qualcosa, quindi se ci sono delle variazioni nel nostro corpo che possono essere indice di qualche cosa che sta avvenendo. Io credo che questo sarà il primo step, poi ovviamente dovremo andare oltre i semplici wearables, ci sono evidentemente strumenti medicali che hanno bisogno di certificazioni e di qualità, certo, di tipo diverso. Che tracciamento alimentare, questo è un tema importante oltre che bello. Esatto, poi per noi italiani, poi in questo momento con anche il tema dell'Expo, direi che è veramente un tema importante. E questo è uno degli aspetti che grazie all'Internet delle cose può essere facilmente realizzato, anzi è realizzato, quindi una piattaforma che è in grado di fatto di collezionare tutte le informazioni digitali che arrivano dalla materia prima, quindi dove per esempio viene prodotto il latte, piuttosto che possiamo parlare del vino, e quindi da dove è stato preso il grappolo di uva dal quale poi si arriva alla produzione del vino. Però non puoi mettere un sensore nel chicco d'uva. Nel chicco d'uva no, ma nella terra sì, sul tralcio d'uva sì, quindi avere informazioni di questo tipo assolutamente sì, perché danno informazioni importanti e sono in grado di aiutare nel processo proprio di inizio della trasformazione. E poi ci sono tutti i tempi e i modi di lavorazione che vengono tracciati durante la trasformazione del prodotto, se parliamo di un formaggio piuttosto che del vino, fino ad arrivare ovviamente al trasporto, alla consegna. Tutto questo può essere poi visto da chi acquisisce questo prodotto attraverso un QR code, quindi un codice che viene letto attraverso un'applicazione dello smartphone e che è in grado di raccontarci tutta la storia del vino piuttosto che di questo prodotto alimentare. Senti, abbiamo bisogno di nuovi professionisti o di nuovi artisti? Perché qui stiamo parlando di una cosa che richiede anche molta creatività, oltre che di tecnologia. Tecnologia c'è, costa poco. Sì, secondo me di tutti e due, guarda. Allora, prima di tutto, noi diciamo spesso che stanno cambiando e cambieranno le professionalità. Ho detto prima che c'è questo effetto di contaminazione dell'information technology un po' attraverso tutti i settori, e quindi questo è quello che sta avvenendo. Questo significa che c'è bisogno di professionisti dell'IT un po' dappertutto, ma anche ovviamente di continuare ad alimentare quella capacità che è quella di design, quella La fantasia che ha sempre anche contraddistinto la nostra capacità italiana di produrre, e mettere insieme queste due cose credo che sia un grosso vantaggio, mm-hmm. soprattutto io credo per noi, quindi io lo vedo veramente in termini positivi. Siamo di fronte a un cambiamento epocale, noi diciamo la quarta rivoluzione industriale, ma al di là di tutto questo è un cambiamento veramente importante, proprio perché tutti i business avranno in qualche modo la necessità di essere rivisti, e questo io credo che è un passo che noi come italiani abbiamo l'opportunità e il dovere di cogliere, perché ci metterà nella condizione di mettere assieme quelle due cose che tu hai detto, la nostra capacità di essere innovativi, di fare delle cose belle con la tecnologia. Se noi metteremo insieme queste due cose, io credo che saremo capaci di cogliere a nostro favore questa nuova wave. Secondo te si sta capendo? Le aziende, anche devo dire, questo è un tema che dovrebbero comprendere molto bene anche tutti quei professionisti barra artigiani come gli elettricisti, gli idraulici, tutto il mondo dell'edilizia, bla bla bla. Sì, guarda, io faccio oramai o partecipo a convegni un po' tutte le settimane, tutte le settimane, ma soprattutto veramente un po' in modo trasversale. Dico, qualche anno fa sembra avessero, come è successo, chiamato alcune federazioni verticali, per esempio quelle che lavorano il legno, piuttosto che settimana scorsa sono stato in Confartigianato. Avrei detto, che cosa ha da dire una persona come me che da 30 anni lavora nell'IT a queste persone, a questi professionisti? E oggi non è più così. In realtà capisco che io ho del valore da trasferire, ma soprattutto, e vengo alla tua domanda, c'è molto interesse. C'è molto interesse da parte loro nel capire come la tecnologia effettivamente può aiutare. E capiscono, secondo me, che c'è un punto di svolta. Quindi l'attività di divulgazione è molto importante e deve continuare ad essere fatta. Io ritengo che ci sia in questo momento un buon livello di consapevolezza che c'è in atto un cambiamento. Magari questa consapevolezza viene anche dal periodo difficile dal quale veniamo, e quindi si cerca di essere più innovativi, no? In questo caso si capisce che andare avanti ma nello stesso modo non porta a dei giovamenti, e quindi si cerca anche di essere più innovativi rispetto al passato. Forse anche questo è un elemento da considerare, ma ritengo che ci sia veramente tanta consapevolezza di quello che sta avvenendo. E io sono anche, devo dire, a volte molto positivo, perché partecipo degli hackathon con dei ragazzi. Quando parlo di ragazzi parlo di persone che fanno la quarta, la quinta istituto superiore, e vedo che sono capaci di fare delle cose incredibili. Diciamo, per chi non lo sapesse, gli hackathon sono queste giornate di dei grandi brainstorming, dei grandi momenti di condivisione in cui si pensano cose nuove, si inventano cose nuove. Sì, si fanno veramente anche dei piccoli prototipi, sì, che ovviamente funzionano, ma avranno anche bisogno di essere perfezionati per arrivare sul mercato. Ma vedo questi ragazzi che hanno delle capacità incredibili e fanno cose più disparate. E te ne dico una, per esempio ho visto vincere un hackathon dove ho fatto la giuria, dei ragazzi che hanno realizzato uno stand di biancheria che era in grado di misurare la differenza di umidità tra i panni e l'aria, e di trasferire le informazioni su un'applicazione. Quindi sostanzialmente tu sei in grado di capire se vale ancora la pena di lasciare i tuoi panni fuori piuttosto che no, e addirittura se con un braccio motorizzato, nel caso in cui il tempo cambiasse repentinamente, di ritirare questo stand di biancheria al coperto. Quindi, per dirti, la fantasia... Poi bisogna vedere, certo, poi bisogna vedere quanto costa, perché... Però diciamo, l'innovazione arriva anche da mille proposte, anche da mille errori, cose inutili che poi diventano magari utili trasformandole. Grazie ad Alberto De Grandi per essere stato con noi, buon lavoro e a presto. Grazie a voi. Finisce così 2024, questa nuova puntata di 2024. Come sempre grazie per la vostra attenzione, questa è la versione podcast del nostro programma. devo dire che da qualche settimana la versione podcast dei nostri programmi ha anche la pubblicità in testa e in coda, e ho ricevuto un discreto numero di email, e uno potrebbe pensare email di ascoltatori che si lamentano della pubblicità. No, invece i nostri ascoltatori sono perfetti, siete bravissimi, e devo dire che gli ascoltatori hanno, chi ha scritto per non complimentarsi, perché non esageriamo, però per esprimere il loro parere sulla possibilità che il mondo podcast abbia un proprio business model. Cioè, alcuni hanno scritto dicendo: ah, che bello, adesso c'è la pubblicità, e quindi questa è una conferma che esiste un modello di business anche per il podcast. Non c'è dubbio che ce lo possa avere, naturalmente bisogna fare ancora un po' di strada, perché i numeri della radio tradizionale confrontati col podcast sono ancora molto sbilanciati, però sicuramente c'è una strada in forte ascesa, che è quella del podcast, e quindi la possibilità di vendere pubblicità senza esagerare, giustamente, per non disturbare l'ascolto, però diciamo in testa e in coda non disturba tanto, Quindi questa sicuramente è una buona notizia. Buona notizia anche perché sapete che il podcast è uno dei modi per creare la coda lunga anche nel mondo dell'audio. Ci sono molti produttori indipendenti di contenuti audio di vario genere che fanno le loro produzioni e hanno uno spazio all'interno del mare immenso del podcast. Ricordo che noi abbiamo intervistato la professoressa Sartori, che è venuta nei nostri studi per parlare di Historycast, che è un podcast fatto in modo molto semplice e artigianale, che però ha un contenuto di qualità e trova un proprio spazio, ed è spesso in alto nelle classifiche dei podcast più ascoltati. Speriamo che 2024 rimanga sempre in alto nelle classifiche, però era giusto raccontare anche questo episodio di questo rapporto con gli ascoltatori, che mi ha fatto piacere, perché sono molto attenti anche a questa evoluzione. Dunque, aggiungo anche che giustamente continuate a scrivere dicendomi: io ascolto 2024 mentre corro, mentre giro in bicicletta, mentre faccio le pulizie, mentre faccio i lavori di casa, mentre sono in auto o in autobus o in treno. Ultimamente due persone mi hanno scritto dicendo: io ascolto mentre lavoro nei campi, o comunque quando mi occupo di agricoltura a vario titolo in vari momenti. Questi ascoltatori mi hanno anche giustamente proposto di occuparmi di tecnologia in agricoltura, tema molto importante sul quale cercheremo di prendere un impegno. Non è facile, non è semplice, perché poi vanno trovati anche gli interlocutori giusti. Comunque è uno spunto estremamente interessante, ed è corretto occuparsi anche di tecnologia in un settore così importante per la nostra economia, noi che siamo italiani e che facciamo un vanto della nostra agricoltura e di tutti i prodotti che derivano dalla nostra agricoltura. Bene, concludiamo questa puntata, grazie ancora per la vostra attenzione, scrivete a 2024@radio24.it. Appuntamento alla prossima settimana. 2024. 2024. 31 seconds and we're going for auto sequence start.